ieri sera c'ero sul 23 perché stavo rientrando da lavoro, ieri sono uscito alle 7 e quindi 7:10 così ho acceso all'aeroporto, sul 10 non c'era nessuno, ho provato a chiamare, poi ho messo in scansione, ho visto che bisogna di andare a ascoltare, tranquillamente. Gianni, in macchina mi sono messo l'antenna, quella più alta. Ah, capo. Ma fissa? No, no, sempre con la base magnetica. No, non ne metto fissa anche perché stavo pensando di togliere l'antenna della macchina, mettere la basetta in maniera tale che potessi così metterla fissa. Per la macchina tanto basta una di quelle antenne amplificate, la butti dentro in alto e già riceve lo stesso. Solo che poi tra una cosa e l'altra lo volevo fare d'estate, c'era caldo, poi è arrivato un po' l'autunno e qualche pioggia eccetera e non ne ho mai messo, quindi sto andando sempre con la base magnetica. Manuele, ma ti pare che tu hai fatto questo segreto che non se ne posso dire, il 23 ascoltare gli commenti degli altri? Boh, non lo so Tony, questa gente. E vabbè dai, niente, l'antenna che sto usando in macchina Tony nella base magnetica è una Alan S9 Plus che va da 26 a 30 MHz e ci puoi attaccare sino a 300 watt, già è, ed è alta 1,75 perché l'ho misurata, di quelle che flettono un bel. Ovviamente quando poi devo andare in qualche parcheggio, centri commerciali, la metto dentro il bagagliaio, già ci sta, la metto un po' ad arco nel portabagagli e ci sta tranquillamente nella mia macchina, non mi crea problemi. E a voglia, ma quando metti la base magnetica, già te lo metti un bel panno sopra la capota, poi la base magnetica sopra? No, tanto c'ha tutta la, diciamo un gommino, la base di gomma, capito, che è una gomma morbida e non graffia comunque. A me mi aveva graffiato la capota una volta, non la metterò mai più, nella Ford Focus che c'avevo prima, vabbè. Tanto guarda, le macchine, io non prendo mai grandi macchine, non sto a spenderci tanti soldi nelle macchine perché viaggiando fai un sacco di chilometri, Tony, e lo sai com'è, le macchine dopo che iniziano ad avere 200.000 chilometri ti iniziano a creare problemi, allora a quel punto io la cambio, ne prendo sempre una nuova, non ci spendo grossi cifre, nel senso la prendo nuova, non prendo grandi macchine. Ho sempre avuto turbo diesel, prima avevo la Opel, adesso mi sono preso la Dacia turbo diesel 1.6 e va benissimo, con un pieno ci faccio quasi 1.000 km andando a 90-100 e già va bene così. Qualche graffietto ce l'ho nella fiancata, quelle come la metti nei parcheggi, segni di strisciate varie, marcature non ne ho, però qualche segnetto c'è, o chi ti tocca dietro uscendo dal parcheggio e quindi c'ha il paraurti appena graffiato, quindi seppure dovesse graffiarsi appena la carrozzeria sulla capota non mi interessa più di tanto. Poi c'è quella Ford Focus, mi ha detto turbo diesel, vabbè, 340.000 km e poi sono andato a farsi vincere, vabbè, pazienza. Vabbè, c'è una bella Clio io, Sport, che 16 valvole, che poi questa era di mio figlio, intestata a me per pagare poco assicurazione, poi a lui se ne è comprato un'altra, questa me l'ha data a me, quindi automaticamente mi ha passaggio perché era già nome mio. E quindi ho preso la Dacia e non ho detto nessuno, Dacia a perdere. No, anche perché il motore è Renault. La carrozzeria, gli interni, diciamo, sono un po' così, molto spartani, ma per come la uso io la macchina, accendo il quadro e deve partire la macchina, mi deve portare al lavoro e riportare a casa. Poi ne abbiamo anche un'altra, quella che usa mia moglie, però quella è più piccola, è un 1.2 benzina, la Opel Agila. Diciamo che già ci sta bene così, quando si rompono si cambiano e quella decina d'anni la tengo io sempre la macchina. Sì, capo, già va bene, dalla mia 1.2, quindi sì, ci vado, già può spinta comunque, andrà bene. Gianni, chi sì? Ehi, ci sono, ci sono. Riprenditela. Capo, dai, stavo cambiando apparecchio, non so se ve ne siete accorti. Adesso ho messo il 3009. Così li faccio andare un po' tutti e scaldano tutti. Va bene, già va bene Gianni, già va bene. Io non agio più piano in famiglia, tu so, domani c'è un funerale, vabbè, c'è il giornale di oggi. Kappa kappa, e dov'è il funerale? Sacro Cuore, l'abitato di Natuccia. E a che ora lo fanno? 11:15. Come mai Sacro Cuore? Non lo so, perché quando è morto Mastro Angelo, che abitava nella via di Natalino stesso, l'hanno fatto lo Sacro Cuore, perché dicono che San Sisto è troppo piccolo la chiesa, poi le macchine non mi cadono, è un casino. E al Sacro Cuore ci sono le parcheggi, appunto per quello. Sì? Infatti c'è giorno, c'è anche il nome mio, c'è. Cosa, Tony? Sulla nuova c'è anche il nome mio. Non ne ho preso il giornale. No, io l'ho visto quello... Sono per me finita oggi. Era lì. E ti dirò cosa mi è successo quando sono andato lì. Mi hanno chiamato, sono andato e un po' di fuoco e fiamme già con quelli di sopra. Okay. Perché l'antenna si era girata, non tagliavano i canali, e mettono solo non ci sale sopra, perché so già cosa potrebbe succedere. E allora ha chiamato il cugino, potesse Cristiano, più anche Franco, un altro, e infatti è successo casino lo stesso. Io non sono lì a stare zitto. Vabbè, sono cuoco. Adesso a me poi so un fatto, ognuno si fa gli affari suoi e non rompete più le pallucce, ok? E viviamo tutti tranquilli, se no se volete guerra, non c'è problema. Allora, a proposito di comunque cambiare discorso, io non so più cosa mangiare stasera già. O mangio due pomodori, ma non so mai giocare le pallucce appunto. Mangio sicuramente, mangio un po' di fagioli col tonno e con le cipolle, mi piacciono molto, con piacere. No Gianni, fagioli non mangiarli. Perché? Perché poi tuona. Mia nonna diceva, si può dire, si trovi il cuso e da dico. Sono potrò di Musano, dizia e burro. Avanti Caprè. Io riprendo e devo chiudere perché sono quasi 7:30, mi devo cambiare, mi devo mettere la divisa, mangiare e alle 8:10 sto uscendo. Se ci siete ancora vi aggancio con la macchina tra una mezz'ora circa. Ciao Gianni, ciao Tonino e tutti gli altri che sono in ascolto. Ascolto il finale e poi vado in Query X. Ehi, dai, ciao Carlo, ciao, ci sentiamo, dai. Ciao Carlo, e non so se ci sono, in tal caso, purtroppo accendo più video. Se mangio poco, non faccio quasi niente, mangio roba leggera già dietro, non preoccuparti. Ok. Io ne ho proprio voglia di mangiare con insalata con i fagioli bianchi di Spagna, cipolle e tonno, mi piace molto. La cipolla no? Cipolla, l'ho detto. Ma non l'avevo sentito, buona sì. Se mai era una giovana, stavo pensando di farmi prima spaghetti con i frutti di mare. Potrò, me la faccio domani, di giorno. Di notte ne mangio pesante, perché c'è un vizio che lo mangio poi, mi guarda per il giove, mi stanco seduto, allora me la vado in camera da letto e mi curico. E allora, peggio andare al buio, ma devo mangiare una cosa leggera, e poi rimite, insomma, la china se c'è qualche duro. Andare. La notte non è che mangiare pesante, vabbè, io già digerisco bene, perché non mangio mai tardi. Vabbè. Oi. Ma neanche io sono 8:15, alle circa. Infatti mi guardo il telegiornale e poi mangio chiaro, però piano. Insomma, vero, ma niente, non vedo nessuno. E Franco, il telefono è sparito, Spariti sono su 23, mi pare. Tutti quanti sono scappati. Vabbè, pazienza, dai. Comunque io adesso ho acceso presto, ho tappato con Carlo e mi sono mangiato un biscotto gelato. Cazzo. Com'è che di radio questo apparecchio che c'ha un microfono normale, tu lì? Vabbè, 5 microfono normale, tipo patata. Tipo patata, perché ce l'avevo troppo attaccato, guarda adesso. Adesso va bene, no, è perfetta, buona, 5. Si sente che il microfono normale. Cabagata. Sì, è normale, però è elaborato, dai, c'ha un'altra capsula. Come sono gli attacchi, Gianni, che non mi ricordo? Gli attacchi? Il microfono si dedicchia a Galaxy, che me ne studio e me ne faccio già in cucina gli attacchi con lo spinotto. Come sono? Devo portare uno spinotto che praticamente c'era un altro attaccato e c'è uno spinotto che ho fatto, bisogna aprirlo e controllarlo, non me lo ricordo tu. Allora ci faccio prima cercare io il foglietto che ho scritto, attacchi, e io faccio anche il disegnino, trovato già, perché non voglio aprire sempre lo spinotto e modificare che deve dare, poi c'ho ogni cosa, ho trovato gli spinotti come sono messi, i cavetti, e mi faccio il disegnino, lo specchietto. Comunque col gas mi fischia sempre, se non c'è nulla da fare. Dipende, se lo metti vicino, se lo metti di fianco non fischia più. Beh, vicino lo devo mettere a fianco io, no? C'è lo spazio nel ripiano, lo metto a fianco come tutti gli altri micro. Ma no, a fianco a destra, dove c'è la parlante, a sinistra. A sinistra, a sinistra. Eppure a me non mi ha fischiato. A me mi fischiava, di brutto pure. Se lo mettevo sulla gamba non fischiava più, ho provato a fare i cavetti della massa, tutto qua, ma niente da fare. Comunque devo misurare la batteria perché non lo so se è ancora carica la batteria, ce l'ho da me, 9 volts. La misura col tessere al limite. Io oggi per esempio mi sono fatto la prolunga per attaccare l'altro radione, quello antico, e non mi funzionava, ho palla. Cosa ho fatto? Col tessere ho provato, c'era un cavo interrotto, e così è. Anziché usare il marrone e blu e giallo verde, marrone e blu fase neutro, ho usato il blu e più il giallo verde la massa e ho fatto fase neutro. Perché il marrone l'ho eliminato perché era interrotto. Ah, non sta di tutto. Cosa? Interrotto dalla radio o dalla blu? La prolunga è interrotta, il cavo interno era interrotto. No, ecco perché non funzionava la radio. Col testo ho provato, dov'è? Riattaccato, perfetto, funziona tutto. Anche il giradischi. Tutto, no, quello che c'è il giradischi, l'ho appena provato oggi. Quello radione grande, proprio antico. L'altro invece il giradischi funziona, è già attaccato vicino alla televisione, e funziona una meraviglia. È bellino me. Ma ce l'hai i dischi? Me l'ha dato qua, ma ce l'hai dai. Dischi che bricca ne ha dato. Ui. No, io ce li ho tutti buoni, quelli che ho sono buoni. Io li compravo, basta andare lunedì, no, ma lunedì, l'ultimo giorno, l'ultima domenica del mese in Piazza d'Italia e ci fare il mercatino dell'usato. E li trovi tutti i dischi, anche nuovi, ancora confezionati. E quanto le vendono? Dipende dal disco che prendi. Se prendi i cantanti conosciuti, 20 euro. 22, dipende dal cantante che prendi, capito? Questi sono 45 giri, io 45 giri ne ho comprato un anche a Portobello. Ma neanche mio figlio di LP, ma non sicuro so se è a Puglia, lo chiedo. E ce l'ha anche mia figlia, di nuovi nuovi. Come glielo chiedo a vedere? Noi vediamo. Cappa. Io ce l'ho però, non le sto più mettendo Tony, non c'ho più la... No, quella lì la fastidio tutto, la fastidio della musica. E addirittura. Ma io la verità, niente, ho messo la radio e ho messo RDS. Poi ci ho scocciato, l'ho spento, ho detto Alexa, metti RDS e poi tutta la giura fatta, poi abbassa il volume, poi spegni, stop, passa. Anche noi facciamo così. A volte, vabbè, ma io di modi di ascoltare musica ne ho tanti, capito? C'ho il radione, c'ho la colonnina, quella del karaoke, ne ho, c'ho l'impianto del computer, ne ho diversi modi di ascoltare e di fare karaoke. E io devo andare da Luca, invece, ho fatto messaggio, ma non me l'ha ricevuto, non è aperto. A dire che non ci sono andato perché è morto mio suocero e quindi... vabbè, pazienza. Signori, Sant'Antonio mio. così e ti fa tanto buonanotte, vabbè. Ma devo ritornare a mangiare un'altra. Dunque, se non sbaglio, sta facendo freschino oggi. Oh, io non sono uscito, con la verità, per niente tutto. Non sono uscito nulla. Stavo facendo i lavori a casa, fugando. Vabbè, comunque. Anche la ginnastica, come ogni mattina, fugando tra una cosa e l'altra, poi ci ho passato il tempo, ho fatto la lavatrice. Ma io stamattina ho fatto due lavaggi di lavatrice già. Ti dirò, quasi tutto asciutto, tranne qualche asciugamano grosso e qualche corse. Sono solo asciugamano che sono là, gli altri sono asciutti. E niente, non metto la tendina dentro casa, è arrivato a questo punto perché quando fa così imbrunire non lascio niente, forse che usare la brina e mi ribagna ancora di più. Allora sto dentro casa, domani mattina sono già asciutti, ho messo già condensato l'acceso, quindi. Ah, noi abbiamo lo stendino atterrato, lo stendiamo lì, oramai lo stendiamo nello stendino, tanto non è molta la roba, quindi oh, yeah. Più che altro è biancheria intima che ti cambi, qualche maglione, qualche cosa così, ma non è che sia tanta, è l'asciugamano. Ah, io c'ho parecchia roba, calze, mutande, magliette, poi golfi, capito? Lenzuola, sotto sopra, federe, e quindi la lavatrice era troppo pesante, dice no, non c'è mai, troppa roba, allora l'ho divisa in due lavaggi, io ci ho fatto, sotto Dio, avevo steso anche sulla cotta che avevo messo, la lenzuola, infatti la lenzuola era già asciutti, fanno in fretta asciugare. E un golfino si è asciugato, buono là, perché l'ho messo nell'altra cosa che c'ho vicino al cancello. Poi c'era anche, c'è una canna con la camicia sera. A me ha detto, sicuramente domani mi ce l'ha chiamato pioggia. Ha detto, per il sicuro, dice che lavoro oggi, così, non si sa mai. Ma io ho fatto altri due lavaggi a settimana, tu lì, ne ho poca per quello. Se no, già la giù lui. Oh, yeah. Ce n'è sempre, anche se lei se la lava a mano. Io la lavo a mano la roba, non gli piace lavare la lavatrice. No, io la lavatrice, perché metto tu la lavatrice, quando arriva a un certo punto la lavo, non la notte, capito? Non la faccio più, la fare zeppa zeppa, se no comincia a mandarci, vuole correre la lavatrice. Comunque caricarla molto non conviene, perché ti spacca il perno del coso, dell'oblò. Il cuscinetto si sbarra pure. Fa molto sforzo e te la rovina. A me una volta me l'ha rovinato, ho pagato 200 euro per farla aggiustare. Però la mia è una Whirlpool, c'ha tutto in acciaio, capito? Mi ha detto, se la prende adesso, se la paga lo stesso tanto, però poi rivedo tutta la cosa in plastica, l'ingranaggio dopo un paio di anni si distrugge, questa è durata 10 anni. Allora, quando mi trovo nell'altra, perché te lo vedo, c'è Maria, l'altra casa che è più bella, lì mi c'era qualche altra lavatrice, infatti mi hanno dato un'altra, dice, quella la buttiamo via, lì ho smontato il motore io, e ci ho sempre riservato. Ma le cestelle, io volevo fare il barbecue, volevo fare, tutto canto, la plastica, fuse intorno al cestello, la mia casina zicca, e tutta. E allora niente, l'ho lasciato stare, poi se mi permetto, cosa mi devi fare perché il senso smontando? Volevo fare un po' più altro, io ho già fatto ciò da voi piedi, e lui è appena andato e c'è ancora, grazie a Dio, ho fatto anche rosita, faccio quello lì. E dirti, queste lavatrici come le fanno adesso? Tutto alla pazza, la plastica fusa proprio. Me l'ha detto, che li fanno in plastica apposta per cambiarle adesso. Quello della Whirlpool che veniva, adesso non lo so se sta ancora andando, se sta facendo qualche altra marca, perché la Whirlpool mi sa che ha venduto tutto. Ma la Whirlpool faceva delle lavatrici con cestelle in acciaio, ingranaggi in acciaio, tutto quanto era, costava un po', perché costava, però almeno era una lavatrice come si deve, capito? Quindi ho preferito cambiarli i pezzi e spendere 200 euro, almeno mi dura, e adesso ce l'ho, dopo che l'ha aggiustata ce l'avrò altri 10 anni dopo che me l'ha aggiustata. Allora, il cestello in acciaio è tutto già. Lo serro che va, è trovato il fuso, la plastica sopra, e poi c'è il cuscinetto all'interno, quindi si deve mettere un cuscinetto, si conviene già fare la lavatrice direttamente, perché fai prima. L'hanno fatto in un modo, così uno deve essere il cestello, non se lo fa più per fare il barbecue, la massa gliene fare. E adesso se me la prendo nuovo me la prendo quella con l'oblò grande, di modo che ci stiano anche dei, come si chiama, i piumoni, e invece di andare a lavare la lavasecco me li faccio io, come fa la mia ex moglie che si rilava a casa. Allora io c'ho tipo piumoncino primaverile, però ci sta. Gli altri piumoni non ci stanno. Una volta quando stavo per iniziare l'inverno, il posto a lavare, che sono pulito nell'armadio, però la povera cosa l'ho preso pure l'altro, e poi me ne cambio ogni 1 o 2 settimane e metto l'altro, capito? Sì, da me non ci stanno più muri, e per esportare la matrice no, perché anche se no, se si rompe me la danno loro nuova, però ci ho fatto, perché rovinarla? No, no, no, no, uso poca roba, metta la matrice, va bene, va bene. Una volta ho messo un po' di più roba, cavolo, se puoi camminare e si dice du, sto correndo in bagno, è della camminetta, e Gianni, il camion te lo dai dito. Ecco Gianni. Avanti. E allora? E allora buonasera. Aspetta, metti sulla portante, Gabi. Gianni, Gabi, buonasera. Ciao Gabi, buonasera a te. Dove è Filippo? Sto cercando questa cosa alternata già. Deve essere questa ciabatta. Deve essere questa ciabatta già. Come mi copre adesso? Prova a abbassare la portante senza parlare. Un pochino c'è sotto, la sento solo in cuffia, un po' c'è sotto. No, un pochino un bel, capito? Ce n'è molta di potere, non si sente appena appena, si sente molto forte. Ma vai. Sicuramente o c'è il cavo sbilanciato oppure nella massa. Ah, ho cavani il suo mixer e esci normale come sta uscendo, che magari è quello lì che ti fa rientro. No, cacchio, lo risolvo stanotte già, vedi, adesso un po' è sparita, no? Adesso è sparita la porta, la situazione, vero? Premi senza parlare. No, non è sparita, c'è sempre. Peggio. Dai, mi lascio fare. Stai anche innescando adesso, dammi. No. Che strano, stavi scendendo bene ieri, ma cosa è toccato? No, non è perché ci guarda, lo è super stato già. Non è super stato già. Non ti capisco, c'è l'alternata più del fischio più forte della voce quasi. Ho detto che sto uscendo con il superstar già. Ah, col superstar. Ma c'hai il mixer attaccato? Sì, sto facendo delle prove, ero annoiato. Fa una cosa, cavare il mixer, esci normale. Fai prima. No, stanotte il niente me lo faccio, vedrai che domani non c'è un'alternata, non c'ho niente. Lo sto provando adesso, così per giocare. Cacchio, che freddo! Freddo c'hai, Marco, lo vuoi un po' di fuoco? Io stasera ero tornato che c'era ancora il sole, ma adesso che ho fatto il giro dell'isolato già, un freddo, ma sono trovato le mani ghiacciate. Sì, c'è freddo infatti oggi. Ma non me l'aspettavo così, io sono uscito nel pomeriggio, sono tornato che il sole era basso, ma ancora c'era, ma è proprio crollata la temperatura. Marco, noi siamo fortunati, se va in continente deve già la neve. Cosa ci lamentiamo? Abbiamo un clima che è così mite. E non siamo mai contenti. Si va del caldo, diciamo che c'è caldo, c'è freddo, diciamo che c'è freddo. Quando saremo mai contenti? Ma l'uomo per natura è insoddisfatto, e se no di cosa ci dobbiamo lamentare? Ma infatti, è solo per dire qualcosa. Gabi, è risolto. Oh, Gabino si sta assillando, quando se ne può stare tranquillo a modulare, Sarà un problema di impedenza, di impedenze. Ha messo il mixer con 3009, no, volevo uscire col mixer, infatti ha provato a uscire con l'eco, eccetera, eccetera, però le fa alternate in più innesca. Ho sentito. Chi c'è rimasto? Io, tu alle rose. È Torino. E Carlo è già andato a lavoro? Carlo no, ha chiuso per cenare e mettersi la divisa e ha detto che poi riaccendeva dalla macchina. Io. Comunque, ho già, avendo fatto il calcolo, caspita, non sembra, però il 213 già 50 metri perde quando è sano, 2 dB, anche 2 dB e mezzo. Secondo me con questo rattoppo fatto 3 dB li perdo. Sai cosa vuol dire 3 dB? Che se io qua uso 30 watt modulati, dall'antenna ne escono 15, cioè io ho la potenza dimezzata, anche se uso il linea retto da 50 watt, ne escono 25 dall'antenna, sempre pochi sono. No, ma poi loro non si devono permettere di tagliarlo, non è quello il discorso è che loro non è la roba sua e dovevano chiedere prima di fare le cagate che hanno fatto. Per cui tu il capo te lo ricopri nuovo, li fai rifare la discesa normale come ce l'avevi prima. No, già, non ne cambio, non ne ho nessuna, per la 27 non ho più voglia di fare, ma no, va bene com'è, poi glielo stagno con il vulcanizzante, però se mi rientrano i soldi comunque del danno è giusto che sia così. E vabbè, già, poi ti spiegherò. Il modo di fare è spiegato dalla provenienza. Vabbè. Ma intanto fanno quello che vogliono sempre. Ma te ne immagini tu, l'hai tagliato un vivo del capo dell'antenna, i muratori che stavano a faccia della lavoro. Io ho detto va vero paghi con preginovo. Perché se non me lo compri nuovo domani, io ti attacco la trattata a Ponteggio. Te ne immagini? E così c'è dritto dei peli. Subito la soluzione. E così c'è dritto dei capelli. Vabbè, non è un problema, ti ho detto, io li trattengo dal saldo, poi li può dire non si può fare, ma nemmeno quello che avete fatto voi. No, vabbè, comunque già, a parte il taglio che a me la ricezione non è cambiata niente, e nemmeno la trasmissione, mi sa, alla fine è la stessa cosa, non è un PL aggiunto che ti cambia, è proprio la lunghezza a cavo, io sono costretto a averne 50 metri, è lungo il tragitto dalla punta del palo a qui dentro. Poi io ne ho 22 metri, 22, 23, no? E qual era il tuo? H100 mi pare. Sì, l'H100. Quello grigio già. E io. E anch'io c'ho quello lì. E io anch'io c'ho quello. Cioè va bene. E io. L'H1000 del resto è troppo rigido. Alla dimensione 213, ma è troppo rigido, c'ha proprio il rame rigido dentro, è un casino, già rigido questo. No, l'H100 è come il RG58, un po' più grosso, ma appena più grosso, e non è rigido per niente, è molto malleabile, non ti muove gli strumenti, anche se io, vabbè, ce li ho nel ripiano, ce li ho tutti attaccati, li ho messo in biadesivo per non muoversi. Eia. Va bene, allora il caffè è quasi, e molti hanno migrato a 23 mi sa già, che mi pare c'era una lotta prima, adesso non l'ho controllato, prima di uscire c'era. Una lotta? Ho detto c'era una ruota al 23, magari qualcuno che era qua ha migrato al 23. Lo so, mi sento un piccolissimo splatter, ma proprio appena così si sente, proprio appena e ogni tanto quando parla cosa Ottore, anche se il 3009 non prende splatter, l'ettore è troppo vicino, quindi Tonino riprendi. Tanto me 19:46, cari miei, è arrivata l'ora che mi devo mettere qualcosa in corpo. Se mangio qualcosa veloce, tu già lì, se ci siete. Pronto cercarlo. Ok. Va bene, signori miei, lo proseguo, io ancora tengo la pandemia, momentaneo, almeno un quarto d'ora. Ci sentiamo. Ciao, ripete già me. Ehi, Arturi, dai, io aspetto se si aspetta Marco che Carlo vada al lavoro perché deve accendere, ha detto così mi facciamo compagnia sino al lavoro. Ciao Tony, buona cena, se ho capito bene ho preparazione cena, io a minuti faccio il caffè decaffeinato, se no qua mi saltano le arterie, che il cuore è un po' strano, secondo me è tutta colpa del vaccino, comunque. Un quarto d'ora rientro subito, dai, lascio acceso. Hai fatto il quarto? Io? No. E allora che vaccino? Quello di influenza? No, no, è una frase che dico sempre, tutta la colpa di tutto ciò che succede è colpa del vaccino. E tu quanto ne hai fatto di vaccini, ma? Io manco uno. Ah! Cos'è sto vaccino? Roba che si mangia? Poi già te l'ho detto, e a me pare strana, cioè io sto sempre con le dita nel naso, negli occhi, nelle orecchie, anche toccando soldi fuori, mi pare strano a me che di non essere venuto in contatto col virus. Diciamo che io sono refrattario come per le influenze, lo sai, è rarissimo che l'influenza mi becchi, è proprio raro, mi pare una solo, ma avevo fatto vedere la febbre a 38 e mezzo, ma tantissimi anni fa, e poi basta, il resto non ne prendo mai, al limite è un po' di, sai, di naso che cola, tocchettini alle ossa, no? Quei piccoli dolorettini, ma nemmeno chiamano i dolori, un fastidio leggero, tutto lì, poi per il resto non... E mamma lo stesso. Anche io sono così, Marco, anche io. Massimo mi viene un raffreddore, una tosse, ma se mi viene proprio contagiato da una persona vicino, come è successo quest'anno, che una persona mi è seduta in macchina con lui, era raffreddato e mi ha contagiato, però febbre, non so cosa voglia dire. Sì, guarda, io mi ricordo che mamma aveva passato l'asiatica, e da allora influenza non ne ha mai preso, se non proprio a livello leggero di mal di testa, eccetera. È come se fosse un ceppo originario, l'asiatica, da cui hanno avuto poi origine tutti gli altri, e quindi come se fosse parzialmente immunizzata. E questa cosa me l'ha tramandata probabilmente a livello di geni, genetico, no? Può darsi, sì. E poi io c'ho una cosa, sarà una mia fissazione, ma io mangio molte arance. E l'arancia è un sai benissimo che contiene vitamina C. E praticamente con l'arancio mi salvo molto. Già, sì, fa benissimo la vitamina C. L'arancia o mangiata o spremuta fa molto molto bene. Anzi, dovrei mangiare anche io di più, però mi piacciono i pasticci, a me i dolci, e lo pagherò. Credo che devi starlo già pagando, comunque. Ho visto un segnale molto basso, chi è avanti? Gavi, sta scendo bassissimo. Di radio, se non stai uscendo di radio, ti sta mangiata. Guarda un pochino se sente qua, faccio la radio, e trova, e sì. Gavi, la radio non so se c'è lineare attaccato, che cosa, però è come quando tu c'è lineare e stai uscendo male, esci distorto. Sì, male, qua il segnale è 7 ma la radio è 1, non ce n'è radio. Gavi, usa quello buono. Vediamo, ma volevo aspettare che entri a seccare, almeno lo segui durante il tragitto, così ne approfitto per il caffè, tanto faccio in fretta. Oh già, cosa ti voglio raccontare? Ti ricordi quell'apparecchio, no? Che avevo preso, no? Da te. Io non sapevo nemmeno dell'esistenza di un vano batterie nell'MC60. Non ne avevo idea, me l'aveva detto poi chi l'ha comprato da me. Sì, si può usare su altri apparecchi, quello dell'MC60 si può usare anche sui baracchini. Ti metti le batterie e vai. Non lo sapevo, me l'aveva detto chi l'aveva presa la radio, perché lui, avendo ispezionato il microfono internamente, ha detto che il vano batteria era in cattive condizioni, mezzo devastato, quindi probabilmente quel microfono, prima che lo prendessi tu, anche se era quasi nuovo, lì ci hanno messo mano. Per il resto andava bene l'MC60. E mi ha detto, vanno batterie, quale vanno batterie? Io non lo sapevo, io credevo che fosse comunque necessario prendere l'alimentazione dallo spinotto. Vedi, una cosa che non sapevo. Vabbè, comunque. Marco, mi suona strana la storia, perché l'ho comprato nuovo quel microfono, nuovo di zecca. Cioè, a me non me l'ha mandato perché l'ha consumato l'altro e mi ha detto: già conoscendoti l'apparecchio va benissimo, l'ho tutto testato, però il microfono è un po' consumato, non è graffiato ma consumato, e conoscendoti mi ha detto, te lo dico prima, mi ha detto se no te lo prendi nuovo, ti faccio uno sconto su quello nuovo, e praticamente me l'ha lasciato 150 invece che 170, avevi 20 euro di sconto, ma non è che ha fatto questa cosa, però era nuovo, boh, chi l'ha toccato non lo so se è passato in altre mani. E boh, io non mi ricordo nemmeno il nome di chi l'aveva acquistato, era un nome, boh, vabbè. Ma va detto questa cosa, io ho detto quale vanno batterie? Non sapevo del vanno batterie. E poi vabbè. Comunque i microfoni esterni sempre belli, tenuti da parte, è inutile, non ci riesco, oggi è più forte di me. Poi guarda, questo mic di serie di questo apparecchio, guarda, così sono a 10 cm. Così sono lontano tutto il braccio, eppure la modulazione, vedo che sale di modulazione, lo vedo dallo Swinter. È come che fosse amplificato, mi. Ehi, ma quegli apparecchi c'hanno il top gun, capito? C'hanno una specie di compressore dell'apparecchio. Come ce l'ha il Magnum, eccetera, eccetera. E quegli apparecchi che escono con tanti watt, c'hanno il top gun, che è, diciamo, una sorta di compressore, capito? Questo però in realtà no, questo no, diciamo che l'hanno fatto così di serie in modo da avere molti picchi, quindi gli avranno anche aumentato la modulazione a crepatura sicuramente, la capsula di quelle a condensatore, c'è un piccolo forellino, e vabbè. Marco, è un inghippo, è un inghippo. Però gli apparecchi che stanno facendo adesso hanno notato che escono tutti belli furti di radio. Di radio escono bene, dai, quindi diciamo di un certo valore. Escono tutti belli di radio, anche per dire il Cobra, il Magnum, anche il Galaxy esce bene di radio anche col microfono normale. Perché se ti trattorino esce bene. Eia, non so se lui stia usando quel President vintage, diciamo, non so se sia quello. Quello era particolarmente buono come modulazione, soprattutto col mic normale. Perché certe volte già questi amplificati, basta che tu magari parli un po' più vicino e ti impasta tutta la modulazione. Ecco perché io consigliavo sempre di parlare non troppo vicino al mic quando è amplificato, soprattutto quelli da palmo, perché non te ne rendi conto, tu parli vicino, magari tutto sputato. Avanti! Sono di nuovo io, non siate razzisti. Adesso la radio è bassa, però esci bene di radio. La radio è, diciamo, quella tua, però è più bassa. È positivo, no, dai, guarda, adesso provo a fare a vedere se innesca, però dovrebbe andare bene. E adesso già va bene, dai. Già è chiara la radio, però più forte dovrebbe essere. Confermi, Marco? Sì, c'è un abisso rispetto a prima, adesso esce, è capibile, è che io c'ho un casino di QRM elettrico sotto, QRN, non... roba elettrica comunque, dai. No, vabbè, dai, adesso la radio ci dovrebbe essere, vorrei regolare un po' i volumi, mi seguite, non disperiamo. Adesso va bene, capito? Non tocchese. già, dai, mi sono messo con il ricevitore, l'ho regolato un pochino, e niente, guarda, un po' a vedere se va bene così, dai, adesso siamo a livello, giusti. Prova a abbassare la portante senza parlare. Sempre con l'alternata c'è, capito? Sai cosa mi ricorda quel suono? Come quando avevi lo schermo vicino al baracchino del televisore, quelli a tubo catodico, quel tipo di alternata. Aspetta, lo sai cosa è? Questo non lo posso togliere, cioè un elettrodomestico in bagno acceso? Lo stufone c'è acceso, la stufa per la bambina, non sapevo cosa era. E non si può provare un attimo a staccare a vedere se è quello? No, che gli sta facendo la luce, no, c'è quello già. Sì, capita, intendo, lo sento io da qua, sì, perché questo qua amplifica tanto il microfono. Allora, tu adesso c'hai il microfono normale col mixer? No, c'ho il USB 58. Ah, capo. Con il mixer attaccato o solo il microfono c'hai? No, con il mixer. Vedi che adesso di meno che ha fatto poco. E ha aumentato anche, ha un dato un po' forte. Forte? Un attimo di querisco. Marco. Marco, ci sei? Però Carlo, mi sa che non è attaccato, perché questo avrebbe dovuto essere già uscito. Marco, ci sei? Scusa, ho sbagliato. Ah, prima Presta aveva detto che forse doveva uscire alle 8:15 di casa per essere alle 9 in servizio, e a momenti entrerà. Io ne approfitto già per andare a fare il caffè, dai, che tanto così lo do a mamma anche. Col plum cake, capito? Poi ci lamentiamo che gli zuccheri fanno male. Ehi, ma tu sei bocchi d'ozzi. Ma poi mi è tornata quella cosa che avevo tempo fa, cioè la notte quando non dormo, e proprio sto arrafanando, la vado, comincio il panettone con il cioccolato, e i datteri, e con la risoggo, e i boeri, tutte schifezze, poi i torroncini, i fichi, l'altra mattina per poco non me la faccio addosso. A me Marco mi piace il tronchi. Tronchi? Qual era il tronchi? Quello, quella specie di wafer con ripieno di cioccolato. Ehi, mamma mia. Dovrebbe essere Ustia, è la stessa cosa dell'Ustia, è la stessa componente per che fanno l'Ustia. E all'interno c'è il cioccolato, ma è così buono, delicato, buono. Gavi, ti piace il tronchi a te? A me i cioccolati mi piacciono tutti già. Io dei cioccolati sono innamorato, però meno ne mangio meglio. Anche io, vabbè. Anch'io sono nella tua stessa situazione, però come gusto sto dicendo, il trucchi è quello dei come cioccolati Ferrero che mi piace di più. È perché il duplo a ce lo butti o il coso, il Bounty. Ah, Bounty non mi piace tanto. Però il duplo sì, il duplo già lo mangio, ma quello che preferisco è proprio quello. Tu prova il tronchi e mi dai la risposta. Io già l'ho provato il tronchi già, non è che non l'ho assaggiato, però preferisco più, dai, quella roba tipo, questo sono il Ferrero Rocher, buona ritiso. Facciamo male parlando di queste cose. Gialli, cuzzoleggia che un pochino di scarichetta. Il formaggio, perché altrimenti impazzisco e divento violento. Il PTT. Il PTT forse. Sta uscendo male? No, forse il PTT, sai, certe volte magari non premi bene. Devo premere sotto, io sono abituato con quello che viene più tu, che c'ha sopra il pulsante. Quando uso quello lì, poi mi viene sempre da premere sopra, capito, invece che sotto. Mamma mia, quel microfono, quanto mi trovavo male. E mi dico, se è metallico, e se è acuto, se è metallico. Poi quel PTT così duro, proprio l'hanno fatto, boh, vabbè, gli americani sono conto loro. No, è la forma che è quadrata e tu come premi ti secca il dito alla fine, non è allungata la forma come gli altri PTT, rimane quadrata e ti secca dritto il dito. È quadrato e piccolino pure, magari lì lo fanno per i muscle men americani, quei camionisti pesano 200 kg, tutto muscoli sono poi. Ma è ritornato lui, è ritornato un bombon, ha cambiato tutto il filo, tutto quanto, è ritornato bello, dai. Sì, adesso rilanciamo Gavino. Comunque avevi ragione già, quando si spaccano quei quelle guaine di microfoni sembrano che si spacchino in modo talmente netto, sembrano tagliate a taglierino, e così l'altro baracchino, e così un altro ancora che ho avuto. Sono guaine che durano giusto il tempo della garanzia e poi si spaccano di netto, come se si cristallizzasse la gomma, cioè roba da terra a terra, capito? Invece il 3009 c'ha il microfono con quelle guaine di una volta, quelle belle elastiche che durano una vita. E vabbè, purtroppo, sempre in peggio va tutto. Vai Gavino, bianco per me, che vorrò fare il caffè, ciao, a dopo. Va anche Riba, avanti Gavino. Ma sta parlando? Ma non sto uscendo se sta parlando. Niente, niente. Già, ci fanno male a me quelle cose, io ti ripeto, a me toglievi tutto ma non mi togliere la pasta, perché io al piatto di pasta non rinuncio, però è diverso perché i cioccolati ti danno il picco, ricevi con la pasta, se sai fare l'insulina vendi e sei tranquillo, capito? Eia, se no la Coca-Cola non fa di mai, carta, quella lì proprio ti crepa. Ma io Coca-Cola non la bevevo neanche da bambino, già, capito? Io proprio non la consideravo, non la consideravo per niente. E quello che è la pasta io non la posso fare a meno. E invece io ho rinunciato alla pasta, anche al pane ne mangio molto poco. No, già, il pane lo devi mangiare perché il pane, diciamo che è quello che dà la forza, la forza al cervello, capito? Quindi ti dà la forza per pensare queste cose qui, perché se tu non mangi il pane sei rovinato, sei un uomo morto. Io non rinuncio più a niente già, perché tanto, visto che se lo fai una vita che non ti toglie nessun gusto, tanto crepare dobbiamomi. Cosa dire, 5 anni di vita in meno, pazienza. Te capì? Sì, sì, sì. È vero, ma se ti aggiudi a gribare, Marco, crepi prima. Devi anche cercare di regolarti certe cose. No, io il pane che lo mangio, ma ne mangio poco, ne mangio mezzo panino, non ne mangio un intero, capito, a pasta. E a volte non ne mangio nulla, dico la verità. Io con il companatico, più che altro, con l'affettato, però con i primi e i secondi non aggiungo pane, solo stomaco piccolo, perché o mangio il pane o mangio il primo. A me lo sai cosa mi piace, Marco? Andare al supermercato dove fanno le baguette, quando sono belle calde, prendermi due etti di mortadella e pulirsi in mezzo. Mamma, li turchi, magari anche fette di formaggio, mi... No, la mortadella solo va bene perché è bella profumata. A me l'affettato che mi piace di più è la mortadella, sembrerà una fesseria, io preferisco la mortadella al prosciutto. Eh beh, i gusti non si discutono, anche se la denigrano, che si diceva che fosse roba terra terra, mortadella, no? Quella più dei poveri, e a me piace parecchio, poi col pistacchio non ne parliamo. Cose che non mi piace, io bene o male già, poche cose non mangio, pochissime. Invece certi, che schifo i coso, che schifo i piselli, che schifo questo, quale schifo? Io la mortadella compro la Suprema, che è la migliore della Bismara che c'è. Quella è buona, bella saporita, buonissima, da via va. La mortadella già è buona, già. La mortadella è però nata, è come che ti fai il panino con i wurstel, mi quando ti fai il panino con la mortadella. Poi il wurstel lo stesso ci vado matto, però dopo quello che ho letto non ne sto più comprando. Prima me li facevo con le cipolle sulla piastra, con le cipolle bene arrostiti, poi ci mettevo il ketchup in mezzo, vai. No. L'avete sentita l'ultima schifezza? In cosa alimentare il regolamento europeo, credo. No, Marco, dì. Che adesso con la, non so per quale scusa, vogliono sostituire certe farine con la farina di grillo, cioè grilli essiccati, tritati, fatti in polvere, usati come farina, non so con quale scusa, ma non abbiamo il grano, il coso, il... non lo so queste zozzerie che vogliono introdurre. Qualcuno dice che su alcuni alimenti ci sia già in mezzo la farina di grillo, E come regolamento europeo lo vogliono autorizzare, come io non capisco. Cioè, come che non avessimo più grano. Adesso non vorranno farci credere che siccome l'Ucraina era il granaio d'Europa non abbiamo più grano e farina, ma per carità. Ma che schifo, non mangio più. Se sono una cosa del genere non li mangio d'Europa. Naturalmente verrebbe aggiunta, presumo, in piccole parti, solo in certi elementi lavorati a livello industriale, non te ne accorgerai mai che c'è, magari c'è già. Ti immagini la pizza fatta con l'impasto fatto con farina di grillo? Vabbè, l'altro giorno, cioè l'altra notte, ho attaccato il cellulare, mentre ero a letto sto guardando il cellulare, e cosa è successo? Deve essere qualche moscerino venuto attratto dalla luce del cellulare. E mi sta entrando in bocca, me l'ha gingudito, ma guarda, una cosa così schifosa, amaro, ma via, mi stavo per vomitare. Cacchio. No, ieri già c'era una specie di micro zanzara che lo stesso dalla luce del cellulare di notte mi è venuta davanti, lì come ho mosso la mano è rimasta tra le dita e come ho mosso le dita si è tutta sbriciolata. E ci sono le zanzare, cioè manco col freddo vanno via, né le mosche né le zanzare. Siamo come tipo Nord Africa già. Una volta non era così. Una volta finita l'estate, no? Quando ero piccolo non vedevi una mosca in inverno. Lo so, morivano tutte. Adesso forse perché c'è il clima più caldo, non lo so, Gavi. E lascia perdere qua in campagna, cioè la visita a corti, ci sono già le graminacce. Ci sono già le graminacce in fiore. Ma si nota anche l'estate già troppo calde. Prima il clima era più mite, cioè le mezze stagioni, la primavera era tiepidina. Adesso in estate un forno, in inverno però non c'è il freddo che c'era magari una volta. Non nevica più dico nevicate buone, dall'85 mi pare. Erano tutte nevicate di nevischio le altre, proprio nevischio là. Sì, il clima è mite il nostro. Gabi, stavi dicendo che vi siete sovramodulati. Gabi. Comunque anche le cavallette, Marco, le stavano vendendo impanate fritte. Ma in Asia? In Asia. E io so che qualcuno le ha comprate dove c'è la città mercato in bustina come le patatine. La città mercato, aspetta che non si alza il volume. Oh, sto diventando sordo io, Non lo sai, l'udito non è più come. Se volte non riesco a discernere bene il parlato. Che sia di persona che sia la radio, boh. Allora Marco, io adesso non mi ricordo chi, ma un amico mi ha detto, mio nipote, siamo andati a città mercato e ci ha comprato le cavallette, sono tipo patatine, così, nella busta le patatine, dice che sono anche buone. No, ma non credo che vendano già roba del genere a Sassari. Poi chi lo sa, ma se non assaggi, però mi fanno senso gli insetti a me, non li tocco nemmeno, ragni, scorpioni, cavalleri, mi fanno senso, più forte di me. Lo so, però c'è che sarà il cibo del futuro. Esatto. Se lo mangino gli asiatici, la von der Leyen se lo mangi. Mi. Avanti Arturino, tu cavallette ne mangi? No, io mi sono fatto un po' di raviolo al volo. Tutte cavallette, ma è pure via. Comunque ci mettono, le ravioli stanno mettendo la farina di grillo. Sì, anche di babauzzo. No, fatti gli scherzi, Marco stava dicendo questo, che adesso cominceranno a sfarinare i grilli, a tutto andare. E io già non ne mangio. E come lo sai tu, della roba che mangi mi la mettono la roba, e la posta la farina userò quella di grillo. E io la roba di pasta non ne mangerò mai più, avanti, divento vegetariano. Ehi, signori mio, avanti, chi è? Alghero. Ciao Mirko, ben sentito, dai, cordialità. Gianni Doppio Rum in compagnia di Torino Kawasaki, di Marco Condor e poi non mi ricordo chi, non c'è nessun altro messaggio. Ciao Mirko da Torino, avanti Marco lì. Ciao Mirko, se mi copi, io ho abbassato lo squelce e adesso ti copio, c'ho un QRM elettrico terribile, però ti copio. Sì, questa notizia l'avevo letta online. Però non capisco la necessità, cioè come se fossero in crisi tutte risorse tipo grano, che ne so io, naturalmente saranno obbligati a indicarlo, presumo, negli ingredienti, però non è una cosa aliena, a me sembra una cosa aliena questa, non è roba che mangiamo noi occidentali. Avanti Calvino per Alghetto. Non va bene, è una cosa schifosa. Poi chi lo accetta lo accetta, io non accetto certe cose, non mi vanno, mi fanno schifo. Preferisco mangiare una mozzarella per mangiare roba con la farina di grillo. Avanti Tony. Ma veramente sono meglio scarafaggi imbottiti con le formichine. Perfetto. Per carità, no, giustamente come dice Marcolino, dai, deve essere innanzitutto nella confezione c'è scritto di cosa, gli ingredienti eccetera eccetera, non è che non si presume che fanno anche quello, però giustamente chi lo vuole mangiare lo mangia e lo compra, chi non lo vuole comprare non lo compra, non è obbligato uno, non è che per sempre faranno solo quello. Vabbè, si sapeva benissimo che il grano la maggior parte lo prendevamo dall'Ucraina, dato che c'è la guerra con l'altro, però adesso le navi le hanno di nuovo, diciamo, sciolte e stanno di nuovo viaggiando col grano, quindi sono a posto. Sì, ma infatti è un'esagerazione, cioè sembra che rifornisca tutto il pianeta l'Ucraina, non esageriamo, però ci fanno passare, si autorizzeranno cose, non voglio toccare il vaccino, cioè cose, trattamenti sanitari quasi obbligatori, se no non lavori, non entri in ospedale, cioè cose della fantascienza, queste erano cose della fantascienza, non credevo fossero realizzabili. Dunque sì, in effetti distribuisce, non dico a tutto il mondo, ma quasi, perché scusa, l'America doveva aiutare, dove c'è da guadagnare, quindi sa che benissimo che a parte il grano c'è anche altra cosa, che ha, diciamo, l'Ucraina, che poi dà in tutto, diciamo, non dico il mondo, ma quasi, automaticamente l'America c'ha da guadagnare come ha fatto sul Kuwait. Ora se va in Africa, dove c'è il Bangladesh a dare una mano, le palle, dove c'è da spiccare, spicca, è fatta così. Sì, guarda, le guerre dove intervengono gli Stati Uniti sono sempre state guerre in interesse, per una ragione o per l'altra, che fosse interesse militare o soprattutto economico, così è. E io mi vergogno di essere italiano, perché il governo ha accettato di dare le armi tutto il 2023 all'Ucraina, sbagliato, e l'ho scritto anche su Facebook, ma scusa un attimino, c'è gente in Italia, sta morendo di fame, non arriva a fine mese e tu dai armi anziché aiutare i pensionati, i lavoratori e quanto bene abbassare i prezzi sul mangiare, che la cosa è essenziale, abbassare sulla benzina e tanto quanto altra cosa, poi invece negativo, dare le armi calmate, malevare, ma io infatti ho scritto Putin fa una cosa, butta la bella bomba al governo, che forse fa la più bella cosa possibile, perché sei l'uomo più felice del mondo, arrivate a questo punto, guarda, basta, ne ho vergogna. Sì, sono crisi pilotate, la benzina, il costo, tutto fatto a tavolino. Ecco, avanti Carlo. Ancora ci siete, io sono uscito adesso, sto andando a lavorare, adesso sono in via degli astronauti per toccare il viadotto. Veramente siamo rimasti per aspettare a te. E io ho anche già mangiato aspirapolvere, 4 ravioli in croce me ne ho già mangiati. Ah, che già c'è, pensavo ci fosse solo Marco e Tonino. No, ti abbiamo aspettato e dovevo entrare in carro, così lo accompagniamo. Visto che bravi che siamo. Bravi ragazzi. Visto, quando ti vogliamo bene. E niente, non lo so finché ci possiamo sentire. Continuate pure, dai, così esco dal traffico, magari quando sono a Predanieda sono più libero col volante. Comunque Carlo, io mi faccio gli affari miei, ma dico sempre la verità. Gianni ha detto questo, già è vero che stiamo aspettando a Carlo, ma in fine conti voi già mi dà due pace con le due frittelle con la crema. Il bombolone ci vuole. C'è già Bombolino e frequente. Sì, frittelluzzi. Oh, non ne gioco più mai niente. Sì, già mi credo mai. A parte gli scherzi, ieri sono sono andato a fare un po' di spesa là. Ci ho comprato due giri di frittelle, ho visto che c'era, e lei era garage, quello della, del panificio, diciamo, che sono, diciamo, non sono eccezionali, ma sono abbastanza buone, dai, poco olio, asciutte, belle, e anche poco zucchero. Come piacciono a lui? A me mi piace soprattutto la crema quando è saporita, che ha sapore di vaniglia, buona. E perché quando è quella crema che sa anche di limone, leggero? Di anice, dipende. Gianni mangia tutto, ma che va a vedere di crema, poi se vuoi, al sapore del whisky non si fa tutti nulla.